essenziale. Bene, professor Regina, tornando al professor Regina, egli ci intratterrà su essere per la morte e apertura al divino. È inutile raccomandare anche al collega la puntualità. Grazie. Conciso, è un po' cambiato rispetto alla premessa, nel senso appunto che mi concentrerò essenzialmente sul testo che ha richiamato l'attenzione di molti studiosi in questo convegno, cioè sui Baitreghe. Il titolo che ho dato è I mortali e l'ultimo Dio nei Baitreghe zur Philosophie. Quest'opera mi ha molto attratto per le sue novità di carattere sostanziale. E fra queste novità che mi hanno attratto e mi hanno spinto al tentativo di approfondire, soprattutto c'è l'apertura alla spazialità nei Baitreghe, che c'è anche in altre opere, ma qui viene motivata a partire dall'Ereignis, la condanna filosofica della struttura del nazismo e, la cosa forse per me più speculativamente interessante, l'introduzione dell'ultimo Dio come via d'uscita dalla concezione dell'uomo come animal razionale. La concezione dell'animal razionale per Heidegger domina tutto l'Occidente. L'umanità, e questo si vede bene anche nel Brief über den Humanismus, ma già nel corso del 1925, in cui Heidegger prepara Sein und Zeit, questo è il tema fondamentale, la polemica con l'anima razionale. Si allontana anche da Husserl, Heidegger, perché anche Husserl è legato alla concezione dell'anima razionale. Ma perché questa opposizione così strenua, così polemica all'anima razionale? Lo sappiamo bene tutti, perché animal razionale vuol dire per Heidegger animal. E animal cosa vuol dire? Vuol dire incapacità di aprirsi, vuol dire condizionamento, vuol dire incapacità di essere mortale. L'animal vuol sopravvivere, non vuole morire. Perché? Perché è condizionato da questa visione, direi in termini nicciani, prospettica. Chi pensa a sopravvivere vede solo il suo punto di vista, non vede il punto di vista dell'essere. Quindi, se vogliamo davvero cogliere l'uomo come apertura all'essere, dobbiamo farla finita con l'anima razionale. Ora, anche nei Baitreghe, è vero, questa polemica con l'anima razionale che è presente in tutti i periodi della filosofia heideggeriana è dominante. E l'ultimo Dio viene introdotto appunto come colui che sottrae l'uomo all'animalità, ossia alla visione prospettica, alla cogenza vitalistica. Come avviene questo? Perché l'ultimo Dio? Proprio introducendo il tema dell'ultimo Dio, l'uomo lo mette, Heidegger lo mette in connessione, anche se apparentemente in un modo piuttosto estrinseco, con l'ultimo Dio. Cito: l'ultimo è quello, qui definisce Heidegger l'ultimità das Letzte, non der Letzte Gott. L'ultimo è quello che non solo ha bisogno del più lungo precorrimento, Vorläuferschaft, ma che lo è, sottolineato la è. Non è il cessare, ma il più profondo inizio, quello che ha la più ampia incursione e che più difficilmente raggiunge se stesso. Per questo l'ultimo si sottrae ad ogni calcolo e deve pertanto poter portare il peso dei più clamorosi e frequenti fraintendimenti. Come potrebbe altrimenti restare il sorpassante? Se comprendiamo così poco nel suo estremo la morte, come potremo allora già essere all'altezza del raro cenno dell'ultimo Dio? Sembra un collegamento estrinseco, in effetti non è così. All'ultimo Dio Heidegger affida quell'ultimità che prima aveva affidato all'uomo in quanto mortale. Ma attenzione, qui il problema diventa arduo. Parrebbe presentarsi una contraddizione. Come può l'uomo pretendere di essere l'unico ente capace di morire, di essere per la fine, se l'ultimo Dio rivendica esclusivamente di diritto a sé la signoria su quanto è ultimo? Heidegger conduce questa analisi nei Beiträge con estrema raffinatezza e anche con assoluta sincerità nei confronti di se stesso. Come mi diceva ieri il professore von Herrmann, Heidegger scrive nei Beiträge meditando per se stesso, con un rigore assoluto e una spregiudicatezza assoluta, arrivando anche a proporsi delle autentiche contraddizioni con se stesso. E non sono rari i luoghi dei Beiträge in cui appunto entra in conflitto, corregge, direi, sein und sein. Una citazione in cui si vede questo lavorio di Heidegger con se stesso. L'essere sussiste come l'accadimento, come il luogo dell'attimo, della decisione sulla vicinanza o sulla lontananza dell'ultimo Dio. Qui, nell'inevitabile ordinarietà dell'ente, l'essere è la cosa più straordinaria. Osservo, l'esperienza dello straordinario che qui viene riservata all'ultimo Dio è anche dell'uomo. Ma allora, dove la differenza? Continuo la citazione. Alla straordinarietà dell'essere corrisponde nell'ambito della fondazione della sua verità, cioè nell'esserci, l'unicità della morte. La morte di un Dio deve essere il più terribile giubilo, der furchtbarste Jubel. Solo l'uomo, aggiunge subito, ha la caratteristica di stare davanti alla morte, perché l'uomo è zelante, così tradurrei in standing, nell'essere. La morte è la suprema testimonianza dell'essere. Anche un Dio può morire, dice nei Beiträge, un Dio, non il Dio. E questo è il più terribile giubilo. E tuttavia solo l'uomo sta davanti alla morte. Come interpretare queste parole? Anche un Dio può morire, e questo è un terribile giubilo, perché in questo caso non è il Dio ultimo. Ed è terribile per l'uomo vedere la morte di un Dio, perché se Dio muore non c'è più speranza nemmeno per il mortale. Perché il mortale ha bisogno dell'ultimo Dio? Qui vorrei, anche se il tempo stringe, richiamare un momentino alla meditazione heideggeriana sull'essere per la morte. L'essere per la morte inteso come il morire al proprio punto di vista, alla propria cogenza vitalistica. Ora l'uomo deve fare questo, solo l'uomo è il mortale per Heidegger, non solo in Sein und Zeit ma anche nella produzione successiva. Ma appunto l'uomo deve mettere in gioco se stesso. L'incondizionata apertura è possibile sul fondamento del proprio finire, del proprio non esserci più. Una contraddizione, se ci fosse solo l'uomo. L'apertura incondizionata a partire da una condizione, condizionata dal finire, dal non esserci più. Ma solo così l'uomo può essere apertura, giocando se stesso. Heidegger ha cercato in Sein und Zeit di superare questa impasse nel trapasso dalla temporalità alla storicità, parlando di una eredità già in Sein und Zeit, ripetendo parole che tornano tale quale in Nietzsche, parlando di una scelta del proprio eroe, di una eredità di bene cui dobbiamo fare riferimento. Ma in effetti in Sein und Zeit il passaggio dalla temporalità alla storicità restava fragile, esigenziale. Nella figura dell'ultimo Dio questo si consolida, invece il passaggio è attuato. L'uomo non è l'ultimo, l'ultimo è Dio. Dio che fa del progetto umano un progettato. E questo passaggio non è solo un uscire, un espediente, è una vera e propria, direi, inferenza. Appunto l'ultimità del Dio fa sì che l'uomo possa essere l'ultimo nell'apertura, possa essere il mortale. Come pensa Heidegger questa collaborazione di mortale e di ultimo Dio? Lo pensa nelle due dimensioni della Dio, il Dio, come bisogno, Nutschaft des Seins, bisogno dell'essere, e dell'uomo come guardiano dell'essere. Il bisogno di Dio è la salvezza del mortale, perché solo il mortale può davvero giocare il suo ruolo di guardiano dell'essere, di testimone di radicalità assoluta, di dedizione al punto di vista della verità. Dio ha bisogno dell'uomo come testimonianza della preziosità del punto di vista della verità. Al tempo stesso, vero, l'uomo ha bisogno di Dio appunto perché l'uomo sarebbe soltanto immortale, solo sul fondamento nichilistico del suo essere per la morte. Un ultimo punto che mi è concesso: troviamo in questa opera così importante delle affermazioni filosofiche contro il nazismo. Vorrei citarle, sono numerose, numerose mirate di carattere filosofico. Come mai Heidegger si esprime così espressamente sull'errore politico da lui compiuto? Secondo me, è una proposta che faccio, in Heidegger c'è stato, in questo dramma storico da lui vissuto fino in fondo, l'occasione per purificarsi da una componente nichilistica del suo pensiero. In Zeit und Zeit, la non consistenza a sé del mortale, la nullità del mortale, è lo spazio, o meglio il tempo, entro cui l'ente accade. L'uomo può abbracciare dall'inizio alla fine l'ente e quindi coglierne l'essere, perché è collocato nel nulla. Nel discorso di rettorato del 33, questo nulla diventa l'origine. L'origine arbitraria, però pur sempre soggettiva. Ecco, la totalità del positivo si staglia a partire dalla mia origine. Ecco l'appello allora alla terra e al sangue nel discorso di rettorato. Al mio sangue, alla mia terra. E invece dei vari preghi tutto cambia. La terra non è più la terra e il sangue, perché in riferimento al Dio, all'ultimo Dio. È una terra che lotta con il mondo, una terra che deve far sorgere nuovi mondi e mondi che devono avere a che fare con la terra. Si inseriscono cioè nella logica dell'accadimento, che è una logica di eccedenza rispetto a qualsiasi forma delimitante, occludente, totalizzante. Nei vari preghi è vivissima la polemica di Heidegger contro il totalitarismo, e accusa di questo addirittura la Chiesa concordataria del 33, e questa ridimensionamento, questa apertura all'eccedenza è tale da consentire ad Heidegger di sfuggire a quella chiusura soggettivistica, ancora purtroppo, nonostante tutti i suoi tentativi, presente in Zeit und Zeit e nella sua produzione, direi, fino al discorso di rettorato. Con l'introduzione della figura dell'ultimo Dio si introduce la figura dell'eraico. Solo in questo senso possiamo capire queste Reignis, che non è, a mio avviso, l'epocalità, la fattualità, il darsi, come è stato inteso in Italia dal pensiero debole, una pura accidentalità, capiti quel che capiti, o una teofania piuttosto incerta e miticamente fraintendibile. No, è un'eccedenza che non si impone l'uomo, che anzi si sottrae per dare spazio al impegno dell'uomo, al dovere di radicalità dell'uomo. In questa dilaterazione si va avanti una logica che non è più quella, finalmente, non è più finalmente quella della soggettività che travaglia il pensiero occidentale da Platone sino a Nietzsche e oltre, ma è un'apertura autentica, apertura non dico a Dio, non dico a un ente, ma comunque un'apertura al di là di ogni tentativo dell'uomo di chiudersi soggettivisticamente, animalisticamente in se stesso. Avrei finito, ho dovuto naturalmente... Ringraziamo il professor Regina. Io sono veramente commosso per la docilità con la quale hanno voluto rispettare i tempi, ecco, e lo ringraziamo, perché se è vero che Heidegger ha scritto i Beiträge meditando, il professor Regina ci ha invitato ad un'ulteriore meditazione sui Beiträge, e mi pare che nessuno di noi può sottrarsi ormai a questa fatica della lettura, ecco, della lettura. E si chiude qui questa sessione del nostro convegno, puntualmente questa volta secondo le previsioni. Vorrei solo dire che nel pomeriggio abbiamo bisogno di cominciare per tempo, perché abbiamo un'altra sessione piuttosto piena, e tra l'altro voi sapete che quando si è nell'imminenza della chiusura abbiamo tutti un po' più di fretta. Presiederà il professor De Vitis